radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Un saluto da Giulia Scalona, sta per iniziare una nuova puntata della nostra rubrica Radure, che segue in diretta gli eventi in Campania dedicati alla multiculturalità e all'integrazione. Siamo stati lunedì 11 novembre a Bellizzi per un incontro sul... Sarebbe corretto dire che avrebbe dovuto seguire in diretta. Maledizione! Alle 22:20 circa si consuma un'immane tragedia. Io e Tony siamo finiti nel mezzo di un classico conflitto tra uomo e macchina, che ci ha fatto precipitare in un vortice di angoscia e disperazione. Partita la diretta, perdiamo la connessione, riavviamo il browser e tutto è perduto per sempre. Da lì in poi ci saranno solo parolacce. Inutile dire che nel viaggio di ritorno a casa eravamo moralmente a pezzi e il motivo lo scoprirete tra poco. Ammettiamo di esserci abbandonati in discorsi carichi d'odio verso i computer e il mondo contemporaneo. Abbiamo teorizzato una web radio fatta con bastoni e pietre focaie. Una tragedia. Niente. Oh, dottore, sono... No. So col morale. Se la scienza ci insegna qualcosa, ci insegna ad accettare i nostri fallimenti come i nostri successi, con calma, dignità e classe. Figlio di puttana, bastardo, te la farò pagare! Perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Lo lasci, dottore, lo lasci! Così lo uccide, lo lasci! Non voglio più vivere! Ora non voglio più vivere! Ma andiamo con ordine. Calma, dignità e classe. Conte, stoppala. Rewind. Lunedì, 11 novembre, ore 19. Abbiamo superato un traffico anomalo su tangenziali, autostrade e strade secondarie. Il navigatore di Google ride di noi. Arriviamo come per magia all'aula consiliare del comune di Bellizzi perché sta per iniziare un incontro sul tema Nuova Italianità. Etichetta vuole che si debba iniziare così il racconto, ma in verità abbiamo visto l'accogliente sala comunale trasformarsi via via che si riempiva di persone in una dorà, in una piazza aperta di discussione e incontro. La distinzione tra relatori e uditorio era quasi una questione puramente architettonica, di disposizione delle sedie. Si poteva respirare un alto livello di coinvolgimento fatto di sorrisi e abbracci. Poco più tardi sarà uno dei relatori, Antonio Bonifacio, a trovare le parole migliori per descrivere questa sensazione. Per noi è stato qualcosa di più simile a un concerto rock che non un convegno. Ok, lo ammetto, l'ho presa per le lunghe, siamo soltanto all'ingresso nella sala. L'incontro è iniziato con 20 minuti di ritardo, e anche stavolta io e Tony ci siamo guardati stupiti, abbiamo pensato che fossero tutti quanti svizzeri. Da dove veniamo noi per iniziare un incontro alle 7, si deve scrivere 16:30 sul manifesto. Quando sono partiti gli interventi, l'attenzione e l'ascolto erano decisamente alla massima potenza. La regia organizzativa dell'associazione Ubuntu Nuove Generazioni Italiane ha portato nel programma contributi appassionati, in grado di mescolare aspetti tecnici, anche molto specifici, assieme al racconto delle esperienze dirette sul campo di chi si occupa di nuove cittadinanze. Una tavolozza di colori che alla fine si è rivelata perfetta nei tempi e nei modi per offrire ai tanti presenti un disegno completo del concetto di nuova italianità, seconde generazioni e nuove cittadinanze. A fare da moderatore un magistrale Giuseppe Grimaldi di Frontiera Sud, fantastico nel suo ruolo perché ha permesso ai tanti presenti con formazioni e età diverse di navigare dolcemente tra i diversi interventi. I saluti istituzionali del sindaco Domenico Volpe hanno offerto la cornice più adeguata al disegno che si stava delineando. Nonostante tutto, però, lo dico con un pizzico di orgoglio, con l'impegno che io ho avuto sempre maggioranze che hanno avuto una predisposizione all'accoglienza, a dare il senso della condivisione, quello della casa comune, che è la casa di tutti, senza discriminazione. Io non ho mai perso le elezioni, una sola volta le ho perse. Nonostante tutto siamo una comunità di circa 15.000 abitanti, ma questo lo dico, se può essere da fare un test per dire: ragazzi, dobbiamo sfrontare il problema della discriminazione. C'è chi utilizza questa cosa contro il diverso per fare campagna elettorale, per raccogliere voti, perché trasmette le paure, perché adesso quello che si trasmette sono le paure del diverso, perché noi siamo entrati in una crisi profonda. Qualcuno pensa che rubiamo il pane agli altri, eppure a noi hanno insegnato che dove mangiano 12 possono mangiare 13, 14 e 15, non se ne accorge nessuno, non sottrae mai niente a nessuno. E quindi io lo dico sempre, perché dobbiamo fare battaglia a fronte alta. Io mi sono candidato alle politiche, me l'hanno strumentalizzato, hanno fatto di tutto e di più, però quello che la comunità musulmana ha dato al mio paese è stato percepito come un elemento di ricchezza, non come elemento di disturbo. Perché quando sono andati a votare, hanno votato la mia maggioranza, questo sindaco, e lo stesso sindaco che ha tentato di aprire e ha aperto la moschea. Che dire? Quindi io dico: se questo è servito da esempio, questo comune, se per 20 anni questo sindaco non ha perso, facendo dell'accoglienza un primo elemento di democrazia, io penso che lo possono fare in tantissimi, se riusciamo ad affrontare questo problema a viso aperto, a mare aperto. Altro che i Salvini di turno che tentano di aggregare sulla pelle del diverso, che sta raccogliendo consenso perché sta alimentando paure. Per questo ben vengano altre iniziative come queste. È raro in questo periodo storico ascoltare un sindaco che parli di accoglienza, della volontà di costruire una nuova moschea in un posto più bello rispetto a quello in cui è ora, e di considerare la varietà culturale come una ricchezza e non come una minaccia a non si sa bene cosa. Il comune di Bellizzi, ascoltiamo, è il comune più giovane della provincia di Salerno. Esiste da circa una 20 anni e Domenico Volpe ne ha una memoria storica diretta. In questi anni può dimostrare di quanto possa migliorare la qualità della vita di una comunità se si ragiona in un'ottica di inclusione e non di ghettizzazione e di esclusione. L'assessore alla cultura, Antonella Capaldo, prosegue sulla stessa lunghezza d'onda. Se parlo di seconde generazioni, quando Eugenio mi ha invitata, mi ha scritto: facciamo un convegno sulle seconde generazioni, da giurista e da politica mi viene subito in mente quella incresciosa parentesi dello Stato italiano che chiamiamo Ius Soli, che è questa specie di legge che stanzia al Senato dal 2015 e che non approviamo. Beh, non si tratta di essere né di destra né di sinistra, si tratta di essere italiani nel senso più aulico del termine, si tratta di essere giusti, si tratta di dare una risposta ad un fenomeno sociale che va assolutamente legiferato, perché non fare quella legge non significa evitare il fenomeno migratorio, non significa evitare nascite, significa fare propaganda razziale. Ed io, italiana, non mi sento razzista e non devo esserlo per il passato che i miei avi hanno sopportato e per il sangue che su questa terra è stato è colato dai loro corpi. Ecco, che poi l'ignoranza è proprio grave e greve, nel senso che noi italiani non siamo puri, noi siamo il frutto del crogiolo di etnie che hanno calpestato questi territori, forse anche per questo che siamo, soprattutto noi del sud, un po' più intelligenti, un po' più belli, un po' più, perché siamo il frutto di tante culture e di tante etnie. Presentatevi a noi italiani e fateci capire quanto valete, perché solo così i sordi e i ciechi potranno apprezzare e capire che siete ricchezza e futuro. È una rarità avere, insomma, amministrazioni così illuminate su queste questioni, è davvero un piacere enorme. Non so appartenere alla classe politica perché sono storico di questo. Però voi siete un'altra di salvezza e a questo proposito in realtà dobbiamo ringraziare in maniera particolare, purtroppo non è potuto essere qui, ma ci teneva a portare i suoi saluti, Patrizio Stasi, che ci ha dato la possibilità anche di incontrarci, perché è grazie, diciamo, alla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia e all'adolescenza che noi possiamo portare avanti questo progetto. Luogo di Patrizio Stasi c'è Rossella Trapanese, professoressa all'Università di Salerno, direttrice dell'Osservatorio Politiche e Sociali, che porta giusto un saluto diciamo della Presidenza. Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere essere qui e soprattutto far parte di questa rete che si è creata perché anche l'Osservatorio Politiche e Sociali, di cui sono responsabile, è parte di questo progetto. Io però oggi porto i saluti di Patrizia Stasi. Patrizia è rimasta bloccata sulla tangenziale di Napoli, ci tiene particolarmente a questo progetto, quindi sapendo che io ero qui mi ha chiesto di portare i suoi saluti. Con Patrizia lavoriamo anche su altri progetti, quindi noi come osservatorio stiamo anche validando tutti i progetti che lei sta portando in atto, però quello che vuole fortemente, quindi io porto il suo pensiero, è di superare il noi e il loro. Cioè, se noi non proviamo a superare questa distanza tra noi e gli altri, facciamo gioco di chi sta creando tutta una serie di condizioni di sfiducia sul territorio, mentre noi dobbiamo fare il lavoro contrario, cioè valorizzare le reti già esistenti, valorizzare chi lavora, chi in qualche modo crea ponti, che in qualche modo crea collaborazioni e chi crea quella fiducia che serve per creare cooperazione. Introduce i lavori la professoressa Rossella Trapanese. Nell'iniziare il suo intervento rende esplicito un pensiero che sta attraversando la testa dei molti presenti. È una fortuna avere amministratori così illuminati. Ok, stop. Di cosa accidenti stiamo parlando? Avete ragione, partiamo dall'inizio, arrivati quasi alla metà di questa puntata, come se fosse una serie di Netflix. Ancora un po' di pazienza, perché come si dice nel linguaggio tecnico, adesso parte un bel pippone. Questo evento da dove spunta fuori? Grazie al decisivo sostegno di Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia alla Regione Campania, si è costruito l'osservatorio sulle nuove italianità in Campania. Pronti, partenza, via. Di cosa si tratta? Il progetto vuole mettere al centro le dinamiche che stanno cambiando il paesaggio sociale e culturale campano attraverso la costruzione di un laboratorio di indagine regionale sulle nuove generazioni italiane. Un progetto collettivo, meticcio e traslocale. Ovvero, gli spazi sono definiti in base alle relazioni tra le persone e non dalla geografia, che si avvarrà di esperienze e competenze trasversali. L'ente capofila è l'Associazione Operatore di Pace Onlus. E tra i partner ci sono le comunità senegalesi di Salerno, Caserta e Napoli, l'associazione Ubuntu, che rappresenta il braccio operativo territoriale del CONGI, il Coordinamento Nazionale delle Nuove Generazioni Italiane, che curerà i laboratori, Frontiera Sud, come responsabile scientifico del progetto, condurrà le attività di ricerca qualitativa, con il supporto dell'Osservatorio Politiche Sociali dell'Università di Salerno. Finito questo doveroso elenco, non si può nascondere il brivido lungo la schiena per la paura di aver dimenticato qualcuno, di aver fatto confusione tra i nomi e le azioni e aver alterato un rigido equilibrio nel riportare la sequenza dei partner. Chiedo umilmente scusa, se ciò fosse accaduto vi rimando ai siti ufficiali per le informazioni più precise. E inoltre ci tengo a sollevare Radio Antenna Migrante da qualsiasi responsabilità. Per eventuali lapidazioni contattatemi in privato o Repasti. Allora, dove eravamo rimasti? Dopo i saluti di benvenuto e accoglienza, la parola passa a Ireneo Spencer, vicepresidente del CONGI, arrivato da Roma. Grazie. Non riesco a alzarmi perché sennò non riesco nemmeno a vedere loro. Allora, in primis esordisco dicendo che pure ho fatto radio per la mia comunità, che sono originario di Capoverde, quindi ho avuto modo di fare lo speaker radiofonico per la Radio Città Aperta, quindi ci appoggiamo presso di loro. Ah, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione, grazie ovviamente all'ospedale del municipio e del comune e tutti quanti voi che adesso interagiremo insieme a questo grande evento. Allora, vi racconto rapidamente che cos'è il CONGI. Il CONGI è nato più che altro con una call, quindi con una chiamata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2014, dove finalmente qualcuno si è reso conto che a livello nazionale esistevano già queste associazioni di nuova generazione. Ci tengo a precisarla, come CONGI ci teniamo molto a dire nuova generazione perché tuttora ancora ci classificano in seconda, terza e quarta, e se volessimo essere corretti stiamo per raggiungere anche la quinta. Quindi nuova generazione perché non è costituita solo da giovani con background migratorio, nati o cresciuti qui in Italia che sono stati adottati, ma ci sono anche italiani autoctoni, quindi che fanno parte, che stanno adesso interagendo insieme a noi. Ad esempio io sono una realtà che si chiama Questo è Roma ed è un'associazione culturale e sportiva contro le discriminazioni ed è nata proprio da questa realtà. Ci siamo accorti che c'era veramente bisogno di lavorare nel territorio, ma oltre al territorio bisogna anche lavorare a livello nazionale. Sappiamo che grazie al Ministero adesso abbiamo raggiunto altri livelli, ma se Ubuntu o molti altri di noi, come siamo stati abituati ad andare a bussare nei municipi, nei comuni e quant'altro. Sì, vi faremo sapere anche con la regione, quindi molte chiacchiere e molte bla bla bla, ma stranamente adesso con il ministero, quindi vedi che le cose sono cambiate, quindi abbiamo stilato un manifesto filo diretto dove ci siamo un po' raccontati, abbiamo trattato i punti della scuola, del lavoro, per quanto riguarda la cultura, lo sport e molte altre cose. E da qui poi alla fin fine dobbiamo un po' crescere, dobbiamo un po' mutare, fino a che adesso nel 2016, fine 16-17, ci siamo costituiti in APS, quindi Associazioni di Promozione Sociale, dove adesso siamo almeno 13, occupiamo 13 città, quindi andiamo da Milano a Palermo, siamo già 32 associazioni, di cui adesso prossima settimana se ne aggiungeranno altre 3 che si abbracceranno un po' questa linea, pensiero del CONGI, quindi siamo già 4200 giovani su questa rete, siamo un ponte anche col nostro paese d'origine, quindi siamo un ponte già con 41 paesi e questo vuol dire anche parlare 33 lingue. Il CONGI, questo qua, adesso collaboriamo con il Ministero del Lavoro, come ho detto, con il MIUR, con il Garante all'Infanzia, con il CONI, il CONI qua in primis sono quello che lo segue, e ad esempio loro hanno fatto una campagna Fratelli di Sport, e Lappone mi ha rimpuntato che loro in questo manifesto parlavano sull'integrazione. Ho detto no, scusate, integrazione la si fa a chi viene adesso, chi si sta avvicinando al contesto italiano, ma chi nasce qui è una questione di inclusione, questione di fare rete, questione di tutto un altro livello. Quindi io ho scombussolato un po' i piani, però è stata già quella là una grande vittoria. Ma al tempo stesso si cresce facendo progetti come questo che stiamo vivendo oggi, molti altri che poi stiamo portando avanti, e la cosa bella è che poi stiamo cercando di fare anche il nostro cavallo di battaglia, protagonisti, dove i protagonisti sono proprio i giovani, dove la prima edizione è stata Reggio Emilia, abbiamo parlato proprio di questi punti del nostro manifesto, poi siamo passati l'anno successivo a Padova, dove abbiamo aggiunto la comunicazione, che purtroppo è anche un grande tasso dolente che bisogna veramente scardinare il linguaggio e la narrazione che viene fatta verso l'immigrato, verso il giovane nato qui, perché anche se sei cittadino italiano, anche se ho il passaporto, ad esempio tuttora abbiamo fatto pure le campagne sul periodo di ISC, sugli Ius Solis, Ius Culture e quant'altro, io avrei chiamato cittadinanza e basta, già pure là il nome è stato sbagliato, mi sono ritrovato la mia faccia in primis sulla copertina di Repubblica dicendo questi immigrati sono sbarcati, quando invece c'è il passaporto attaccato al collo, quindi già sei ignorante su quello. Soprattutto bisogna lavorare a livello proprio culturale, lo si fa con le scuole, è inutile girarci intorno, bisogna proprio lavorare tuttora lì dentro, si fa molta fatica, a volte i professori si trovano i bambini nati qui però già danno per scontato che non parli bene l'italiano, quindi devi raccontare il tuo paese d'origine quando alla fine non ci sei mai stato, quindi puoi raccontare barzellette oppure ti fai narrare dai nonni, dice com'è casa, cioè non la conosco. E ovviamente questo qua poi ti porta anche soprattutto nel periodo della terza media, che ci sono i consigli, orientamento per andare alle scuole superiori, no, perché se figlio di immigrato automaticamente devi fare giusto lavori, corsi formativi, cose varie, cosa che è successa a me, alla fin fine adesso sono architetto, quindi il problema non sussiste, quindi se uno vuole può raggiungere determinati livelli. E dopo questo la scuola, ovviamente c'è il passaggio del lavoro, e anche qui altro punto dolente, e tuttora ad esempio io, avendo mio padre che si trova in Olanda, quindi da piccolo mi facevo da giugno a settembre in Olanda, quindi un po' l'olandese pure volendo lo si parla, e già mi trovavo quando ero piccolino persone che di origine straniera che ti guidavano i mezzi di trasporto, che stavano dietro uno sportello d'ufficio o quant'altro, cose che ancora qui fai veramente fatica, e siamo già, ti parlo, sono anni 80, quindi sono già passati quasi 40 anni e ci troviamo ancora in questa situazione, quindi qualcosa veramente deve cambiare, non deve cambiare da noi, deve cambiare da voi che siete laggiù seduti piccolini, quindi che ci avete adesso 12-16 anni più o meno, quindi cercate adesso a parte gli scherzi di portare avanti, di seguire ovviamente il progetto di Ubuntu, che poi dovreste portarlo avanti voi, quindi con un'altra versione. Qui è bello essere là seduti, ma prossimamente, anche il prossimo anno, vi vorrei qui partecipi e rendervi conto, fare voi il mutamento e il cambiamento di questo grande percorso. Quindi il futuro sta su di voi, inutile che vagheggiate, vi tengo sotto controllo, a parte gli scherzi. Questo qua è quello là che comunque fa il CONGI, sicuramente continueremo a collaborare con voi con molto piacere. Già vi do l'invito prossimo anno, sicuramente per marzo-aprile, protagonisti si farà a Roma, quindi toccheremo la tematica di quanto riguarda la cittadinanza e la partecipazione attiva, sarà più o meno in quel periodo lì. Che altro dirvi? Molti progetti stanno andando avanti, però sicuramente seguiteci sulla pagina Facebook, faccio un pacchetto di propaganda, anche il sito, quindi conci.it. Poi ho giusto qualche manifesto, però ovviamente le lascio un po' al comune, qualcuno di voi, e potete anche guardarlo sul sito. Quindi il nostro manifesto è rendivi conto il lavoro che è stato fatto con tutte le altre cose che abbiamo aggiunto dalla comunicazione e soprattutto anche alla cooperazione. Abbiamo aggiunto ultimamente che con il summit delle diaspore sta girando pure questa cosa, renderci anche partecipi in quel percorso e, come dicevo, essere noi ambasciatori nel nostro paese d'origine e anche fare a nostra volta essere quei formatori verso i nuovi giovani. Grazie mille, Bahia Labub, dopo di lui, viene accolta con un applauso caloroso e sincero. Chiamarla presidente dell'associazione Ubuntu è francamente riduttivo, com'è riduttivo definire Ubuntu solo un'associazione. Ubuntu è un corpo vivo e anche la bellezza del corpo umano, dove le diverse parti lavorano assieme in momenti diversi. La migliore presentazione di Bahia la farà verso il finale un bambino di 9 anni. Mi chiamo Zineb Tessamad, ho 9 anni, frequento le primarie. Ringrazio a tutte le persone che sono qui e conosco anche una buona signora che si chiama Pai. Prosegue Gianluca Mastrovito, presidente delle ACLI di Salerno. Entra nel vivo e offre la ricerca e i numeri che fotografano il fenomeno della presenza degli stranieri nella provincia di Salerno, da uno snodo fondamentale e capillare che le ACLI possono garantire. Propone di cogliere la possibilità di trasformazione che il terzo settore sta attraversando per poter rendere sempre più efficace e rivolta alla comunità l'azione di associazioni e cooperative. Diciamo che deve cambiare molto molto probabilmente il contesto formativo. Un grande lavoro può farlo la famiglia, deve farlo la scuola, deve farlo e lo fa l'università, perché anche i modelli che abbiamo immaginato della multiculturalità, quindi profetizzando lo ius soli, lo ius culture, queste insomma probabilmente sono delle elaborazioni più concettuali che poi realmente realizzabili, superare i modelli dell'assimilazione per cercare di andare verso quel sistema di integrazione, o meglio di interazione, che terrebbe insieme il noi e il loro, laddove ci sia un noi e un loro. Il terzo settore, a mio modesto avviso, può fare tanto, perché può costruire una lobby positiva rispetto a proposte di legge e non solo. In questo momento il terzo settore sta vivendo anche un momento di rigenerazione, di riforma, per cui oggi fare il bene non diventa più una concessione, ma diventa un fatto legalmente riconosciuto. E questa è una condizione importante, perché tra una associazione di golf e le ACLI, perdonatemi, esiste una grande differenza. Il microfono viene poi ceduto ad Antonio Boniface, direttore dell'ufficio Migrantes della diocesi di Salerno. L'ufficio Migrantes abita le frontiere urbane di chi è ai margini, opera in quelle crepe normative dove trovano posto le storie di un'umanità fragile. Si rimbocca le maniche e va avanti. I problemi ci sono tanti e vanno risolti con la presenza e con l'esempio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie dell'occasione che ci date, ecco, di parlare, di stare insieme, di rincontrarci, ecco, perché quello che non potevo mai immaginare 10 anni fa è oggi di venire qui e salutare come se niente fosse, ecco, come amici, non come stranieri o come migranti, tutti i volti che conosco, no? Amandip, Sara, Serena, Eugenio, Bahia, Dora e tutti quanti. Quindi, ecco, personalmente è una ricchezza che ho già acquisito nel conoscervi e nel camminare insieme come amici. Ecco, per me e per tutti quelli con cui collaboro non c'è più una differenza. Ovviamente io, ecco, rappresento l'ufficio diocesano Migrantes. In sintesi è un'esperienza della Chiesa Cattolica che per la quale, ecco, la Chiesa Cattolica ha sempre avuto questa sensibilità, questa attenzione, questa cura per i migranti, per coloro che partono e per coloro che arrivano, nel senso, ecco, che chi parte lascia sempre qualcosa, e questo lo sappiamo bene, lo sapete bene, ed è importante che dove arriva ci sia qualcuno che lo vada ad accogliere, e quindi questo è, ecco, l'impegno della Chiesa, e la Chiesa Cattolica da sempre, in particolar modo, ecco, la diocesi di Salerno ci crede da 11 anni sicuramente, sostenendo e stimolando la Festa dei Popoli, nata per caso, semplicemente incontrando per strada delle persone che somaticamente, ecco, sembravano persone migranti, persone straniere, con le quali ci siamo incontrati man mano. Siamo partiti in 5 persone. La Festa dei Popoli oggi è fatta da tantissima gente che crede in questa esperienza, non è un evento ma è un'esperienza, che si ritrova in piazza per conoscere quello che non conosce, perché la ricchezza di questo incontro è poter conoscere qualcosa che non si potrà incontrare. Io dico sempre che io non potrò viaggiare in tutti i paesi che vengono raccontati nella Consulta dei Popoli, non potrò andare in tutte le parti, e visto che non potrò andare in tutte le parti, ne prendo l'occasione, perché loro sono qua. E loro sono qua non da stranieri, non da migranti, ma da persone che hanno scelto l'Italia come luogo con cui costruire la propria vita. La parola particolare in cui noi crediamo è il sogno, quindi persone che hanno avuto il sogno da realizzare in Italia, e quindi noi ci poniamo come speranza di questo incontro. Ecco, talvolta le fedi vengono viste come diversità, come differenze, motivo di distacco. Penso che col cammino che facciamo da anni tutti insieme, ma anche a livello più ampio, pensiamo all'incontro tra il Papa e che è avvenuto ad Abu Dhabi, le fedi religiose non sono motivo di distacco, ma sono motivo di incontro e di cammino. A proposito di generazione, ovviamente, ecco, la parola che Gian Maria e Gianluca hanno ripetuto è interazione, e ci tengo sempre a ripeterla, perché le parole sono mentalità. L'integrazione, quando qualcuno la usa in televisione, come la vede come qualcosa che chi viene da fuori deve diventare come me, deve, ecco, acquisire i miei modelli. L'interazione è tutt'altra cosa. L'interazione è che io, Bahia, Raduan, Sara, Marta, Dora facciamo le cose insieme, agiamo insieme. Perché lo facciamo? Perché ci sentiamo soggetti di questo territorio. Ecco, il piacere di camminare insieme è perché non siamo più nessuno di loro, ecco, nessuno delle persone che non sono nate in Italia all'epoca si sentono più stranieri, ma insieme diamo qualcosa al territorio. E poi ovviamente ci sono le nuove generazioni, quelli che sono nati in Italia, penso ai figli di tutti questi amici oramai che vedo crescere. Ecco, mi ricordo Andrea, la prima volta che l'ho vista da ragazzina, adesso è 18 anni, è cresciuta, quindi questa nuova generazione che cresce insieme a noi. Quindi vi permetto di lanciare un nuovo concetto questa sera, che è un patto tra generazioni. Non è più una questione, consentitemi, senza togliere niente a nessuno, di seconda, di prima, di terza, di quarta, ma è un patto tra generazioni, dove ognuno di noi ha un ruolo preciso. Chi ha 80 anni, che sia migrante o che sia italiano, deve trasferire culturalmente i valori a chi è giovane, a chi è bambino, a chi è appena, ecco, inserito in questa società. Così come chi oggi è giovane, chi oggi ha ancora quella forza e quell'energia, deve trasferire tutto ciò a chi più ha passato del tempo, quindi più anziano. Per cui, ecco, quello che vi proporrei, su cui riflettere, è questo patto tra generazioni, dove in questo caso non c'è più differenza di nazionalità, non c'è più differenza di provenienza, non c'è più differenza di background migratorio, perché, ecco, siamo tutti insieme e contribuiamo a costruire questa società, perché, ecco, i giovani cresceranno qui, acquisiranno i valori italiani, li promuoveranno, gli anziani si riconosceranno in quelli e li trasferiranno. Così come, ecco, penso a tante nonne che sono venuti di prima generazione, ecco, usiamo ancora questo termine, che sono venuti tanti anni fa, che trasferiranno ai propri nipoti quelli che sono anche le tradizioni di origine. Ma tutto questo non fa altro che trasferire valori, i valori dell'inclusione, i valori dell'incontro, i valori del camminare insieme. E quindi questo patto educativo, secondo me, è fondamentale. Talvolta ecco, ci fa piacere festeggiare la cittadinanza italiana di alcuni amici di prima generazione, così come ecco, sosteniamo l'acquisizione della cittadinanza di degli amici che sono arrivati e ancora stanno lottando giuridicamente per la cittadinanza italiana, così come lotteremo sempre perché chi è nato in Italia acquisisca e cresce in Italia acquisisca la cittadinanza italiana, che non è un premio, attenzione, è un diritto, ma soprattutto il riconoscimento della volontà di chi è nato e cresciuto e studia in Italia di continuare a camminare con noi arricchendo questa società, non la nostra società, questa società, perché la nostra società non è mia perché sono nato in Italia e i miei genitori erano italiani, ma è la società a cui partecipo io, a cui partecipa Andrea, a cui partecipa Bahia, Rado e tutti gli amici che sono qui e i loro figli. Quindi andando a concludere, quindi io penso che ecco, la cittadinanza sia un bel riconoscimento di quello che si può dare a questa società, e ovviamente se parliamo d'Italia mi permetto anche qua di rilanciare un nuovo concetto di Europa, perché chi è cittadino italiano è anche cittadino europeo. Maria Luisa Albano di Mediterranea Civitas, dopo di lui, segue questo filo di ragionamento quando parla di iniziare dalle scuole, quando parla di antropologia militante, quando parla di partire dalle fiabe, dalle narrazioni con i bambini anche molto piccoli, per poter offrire loro un vocabolario nuovo e per dare in questo modo dei nuovi strumenti per pensare le cose in modo diverso. Nel nostro piccolo stiamo cercando veramente di, come dire, creare un messaggio nuovo. Allora, cominciamo dalle scuole, cominciamo a parlare di fiabe, cominciamo a parlare di antropologia applicata, cominciamo a dire che cos'è il diritto nelle sue varie sfaccettature. E allora, quando noi abbiamo fatto un esperimento, noi abbiamo dei bambini che ci seguono dalle scuole elementari, siamo arrivati alle scuole medie, anche alle scuole superiori. Se un bambino che ha sentito raccontare una fiaba araba da quando era piccolo, diciamo Egitto, mondo arabo, non dirà mai kamikaze, terroristi, dirà che bello, mi ricordo questa fiaba. Grazie. Il successivo intervento di Andrea Pascuta dell'Associazione Open è il precipitato di tutto quanto è stato detto prima. Una giovane donna nata in Romania che grazie all'attivismo, al volontariato e allo sport rende il posto in cui vive un pochino meglio di come l'ha trovato. La ricchezza di cui si parla è sicuramente questa e aumenta con le possibilità che chi vive in un territorio ha di esprimersi. Buonasera a tutti, il mio nome è Andrea Pascuta, sono di origine romena ma vivo in Italia, precisamente ad Empoli, da circa 17 anni. Mi tocca particolarmente questo argomento, l'argomento interazione, integrazione, proprio perché in primis io, come mia esperienza, quando arrivai in Italia ho attraversato un periodo abbastanza brutto della mia infanzia, mezza adolescenza, diciamo così, perché giustamente sono stata vittima di atti razzisti da parte di magari un gruppo di bambini o comunque di diversi adolescenti, e per questo motivo con gli anni poi ho iniziato ad acquisire una sorta di protezione, tra virgolette, nei confronti di ragazzi magari provenienti da diverse posti del mondo. Iniziai con l'associazione di mio padre, con il gruppo Migrantes, lavorando per la Festa dei Popoli da circa 10 anni. Poi iniziai ad inserirmi in gruppi sociali, nei forum giovanili, nei forum del comune, e da circa un mesetto abbiamo aperto una nuova associazione, l'associazione Open, che lavora per quanto riguarda per quanto riguarda Salerno, la provincia di Salerno, e abbiamo iniziato qualche progetto per quanto riguarda l'integrazione con un gruppo di scuola calcio per sensibilizzare i bambini, la società, ma soprattutto i giovani in particolare, perché come diceva Ireneo Spencer, scusami se non sbaglio il nome, e anche la docente Albano, l'importante è partire dalle scuole, perché per mia esperienza personale, per l'appunto, è dalle scuole che si inizia a capire come funziona il mondo, si inizia a conoscere. È la scuola che ti dà le basi per muoverti nel mondo, è dalla scuola che poi esce il giovane del futuro, il futuro futuro padre, la futura madre, e di conseguenza è giusto dare le basi all'adolescente, al giovane nelle scuole. Ed ecco perché con l'associazione inizieremo un progetto nuovo nelle scuole, proprio per sensibilizzare i giovani a questi argomenti. Vi ringrazio. Gli interventi poi si allargano, il microfono passa tra le persone sedute, si sentono opinioni, storie di vita, voci anche di tante da diverse. Il futuro, che piaccia o no, è questo. Un capitolo a parte lo meriterebbe il meraviglioso buffet realizzato da Asna, la concorrente di Bake Off Italia, membro dell'associazione Ubuntu, che ha sconvolto tanti luoghi comuni sulle donne musulmane e su quale risorsa immensa possano essere le associazioni e l'impegno sul campo. Iniziamo una serie di domande, chiediamo a Ireneo, che è arrivato qui, è un po' l'ospite d'onore chiaramente visto il suo ruolo, ma poi le interviste più importanti per noi sono quelle di Dorra e Zaccaria, che ci descrivono una quotidianità inimmaginabile per chi è nato in Italia e per chi ha un documento, per chi non ha mai dovuto lottare per i propri diritti come il sottoscritto. E ci descrive una situazione particolare che io trovo sconvolgente. In vacanza con la sua famiglia, il marito è italiano e la figlia piccola, nata in Italia, arrivati ad un controllo dei passaporti, lei è l'unica che viene trattenuta per ulteriori controlli perché è nata in Tunisia. E a me questa cosa sembra di una violenza assurda e totalmente inspiegabile. Così come Zaccaria, che parla in dialetto e poi si rivolge a altri suoi compagni in arabo con una naturalezza impressionante. Lui ha 14 anni e con una maturità da quarantenne ci dice che lui alla fine ha la possibilità di scelta, che ha qualcosa in più e non in meno. E ripenso alle parole di Bahia, che dice che il futuro che ci piaccia no è questo, e io direi anche per fortuna. Ne è valsa la pena come sempre, tragedia a parte, e siamo tornati a casa con tante domande in più e abbiamo lasciato per strada tante certezze. Così torniamo con la voglia di rimboccarci le maniche e avanzare a testa alta con i piedi nel fango. Grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.